La prima domanda che vorrei farti è: quando arriverà l'iPhone in Italia? Ma questa è la domanda che si fanno in realtà tutti, perché nel comunicato ufficiale uscito in settimana c'è scritto che sia TIM con comunicato TIM, sia Vodafone con comunicato Vodafone porteranno l'iPhone in Italia. Nessuno dei due operatori che lo porteranno in Italia però hanno voluto sbilanciarsi sulla data di arrivo del prodotto. Non si sa neppure se il prodotto che arriverà in Italia sarà l'Edge, quindi il 2G, o sarà il passo direttamente successivo di Apple, cioè il 3G, sarebbe comunque possibile vedere l'iPhone già a giugno. Diciamo che il quadro più probabile è quello che TIM comincia a portare il prodotto 2G, tanto per capirci quello che è uscito anche negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, in Francia e in Austria, per l'estate, quindi prima dell'estate, entro l'estate, e subito dopo si possa parlare con un outlook natalizio del prodotto 3G, che dovrebbe essere invece presentato in America proprio prima dell'estate. Quindi questo è lo scenario di probabilità, ma al di là di questo poco si sa anche sulla dotazione tecnica del prodotto, perché come i nostri ascoltatori ben sanno è uscito un prodotto con 4 giga di memoria, poi un altro prodotto con 8, ora si attende il 16, addirittura il 3G potrebbe avere 60 giga. Non sappiamo assolutamente, su questo bisogna essere molto sinceri, quale tipo di modello arriverà in Italia. Comunque, se la data è quella dell'estate, penso dovremmo veramente aspettare ancora poco. Ci sono alcuni, per la verità pochi, italiani che hanno un iPhone. Come è possibile che esistano già degli iPhone in Italia? Spiegaci un po' questi due mercati, quello ufficiale e quello parallelo. Beh, diciamo che il mercato ufficiale in questo momento c'è solo nei paesi dove qualche operatore ha portato attraverso un accordo con Apple il prodotto ufficiale. Come ti ho detto, Stati Uniti, tra pochissimo il Canada, gli Stati Uniti con AT&T, l'Inghilterra con l'operatore O2, Germania e Austria con T-Mobile e la Francia con Orange. Nelle altre cosa è successo? È successo che ha funzionato il cosiddetto canale parallelo e non ufficiale. La cosa più semplice è stato ovviamente l'acquisto in loco, soprattutto negli Stati Uniti la scorsa estate, di un prodotto che è stato portato poi in altre nazioni e con un piccolo accorgimento sbloccato, cioè messo in grado di funzionare anche con un operatore che in realtà non aveva portato il prodotto in modo ufficiale in quella nazione. È stato possibile farlo in Italia ma anche in altri paesi. Molti hanno anche acquistato il prodotto via internet con tutti i rischi che ovviamente ne conseguono. Il prodotto che arriva in una nazione dove il modello ufficiale non è ancora stato presentato non è coperto da garanzie, è bene ricordarlo, ma lo sai bene che quando ci sono questi lanci così innovativi ci sono tanti pionieri che vogliono provare la novità. Stiamo parlando di un telefono che ha venduto non più di 6 milioni di pezzi in base ai dati che abbiamo fino ad oggi. Se confrontiamo le vendite di iPhone con le vendite dei grandi produttori di telefonini, stiamo parlando di una nicchia molto piccola di mercato. Allora, per quale motivo si parla molto dell'iPhone e per quale motivo questo telefono, anche se destinato ad una nicchia molto piccola, è un telefono molto atteso e al quale gli stessi concorrenti guardano con attenzione? Beh, guarda, in effetti hai detto bene, il telefono ha venduto meno di 6 milioni di esemplari, tanto per fare un paragone che anche tu sento fai molto spesso ed è molto corretto: Nokia vende 1.300.000, 1.200.000 telefonini al giorno, ne vende 435 milioni all'anno. Qui siamo però su un altro piano, perché c'è stata questa corsa verso l'iPhone. Beh, innanzitutto perché tutto quello che fa Apple, che è un marchio molto forte, è improntato a un design molto molto moderno e aggressivo, viene osservato con molta attenzione e viene acquistato con molta attenzione da un'ampia schiera di consumatori che seguono tutto quello che Apple fa. Poi in realtà certo la casa di Cupertino ha visto in questo mercato la possibilità di sviluppare un nuovo concetto di telefono.